risultato finale, non è il fine ultimo di quello che noi intendiamo essere lo sport, è solamente una conseguenza di tanti comportamenti, e a noi piace più mettere l'accento su questi comportamenti, su queste azioni che sono, non so, ad esempio il divertimento, l'impegno massimo, il sacrificio, ma anche il fair play. Ecco, a noi interessa fare insieme questo percorso. Pomeriggio freddo era di novembre, fra querce, sussurri e penombre, il giaguaro si avvicina, nel secchio l'acqua fuma, chi salverà le nostre vite? Principessa Aladdin, stai attento, ferma il tuo cavallo prima del tramonto, fulmonito di sabbia e vento, ragazzaccio come aiuto, e la sorte colpì circa sullo stinco. Chi ci aiuterà lungo la strada? Gian Sticchio scheletro annienterà. Chi ci salverà da tutto il male? Gian Sticchio, Gian Sticchio, la la la la la la. Chi ci guiderà fra mare e monti? Gian Sticchio, Gian Sticchio, il furgone balla già. Quando i banditi giunsero al casello, eri pronto e quelli ti colsero in fallo, strapparono la taglia e te la misero sul grugno, impara la sconfitta, lectio excelsa. Ettore si prese l'onere e sfidò il greco, come Fabio fino alla fine col suo nemico. Fu quello leale di cui si narra ancora, dal mito alla storia, sognando Excelsior. Chi ci aiuterà lungo la strada? Gian Sticchio scheletro annienterà. Chi ci salverà da tutto il male? Gian Sticchio, la la la la la. Chi ci guiderà fra mari e monti? Gian Sticchio, il furgone balla già. Gian Sticchio, la la la, Gian Sticchio. La la la, Gian Sticchio. La la la, cazzo cazzo. La la la, Gian Sticchio. La la la. Però, dai. Allora, ripetiamo, tutti quanti fate na na na, io poi io giusticchio. Ma quante volte lo facciamo? 7-8 volte. Fare na na na, giusticchio. Diventa più difficile. Sai, faccio